Un sacerdote nella sua vita incontra le persone soprattutto. A me è capitato di incontrare una giovane donna dentro e fuori da una crisi psicologica che quando si apre mi dice: io sono nata per sbaglio, mio padre e mia madre non mi aspettavano più. Anzi, mia madre mi ha confidato che quando è rimasta incinta di me, mio padre la spingeva ad abortire e c'è voluta solo la decisione di una donna, pur con mille ripensamenti, per tenermi e sono io che sono nata, ma io non sono stata desiderata e non sono stata amata. Mi veniva in mente questo quando veniva proclamata il capitolo primo della lettera agli Efesini: in Cristo il Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo. Capite l'abisso che c'è tra la mentalità di questo mondo che dice: un figlio non lo voglio, l'utero è mio e me lo gestisco io, diceva le femministe, e questa visione santa, consolante della parola di Dio. Amici, siamo fortunati a essere cristiani. Certe volte di fronte all'attacco del mondo ci sembra quasi, agli occhi degli altri, di avere qualcosa di meno. Poveretti, sono obbligati ad andare in chiesa, obbligati a pregare, obbligati a non tradire, obbligati. Siamo nel cuore di Dio, amici, pensati da sempre. Ma questo, a ben guardare, sta dentro, inscritto nel cuore dell'uomo, anche dell'uomo che apparentemente non segue il cammino di Gesù. Una ragazza mi dice: Don, mia sorella vuole parlarti, guarda però che mia sorella è un tipo strano. Va bene, falla venire. Mi vedo venire incontro una ragazza così appariscente da sembrare, com'era sistemata anche male, una donna di strada. Ci appartiamo nell'ufficio parrocchiale e lei quasi mi aggredisce: 3 aborti ho fatto, Dio mi manda all'inferno. E io la ascolto: ma cosa ti è successo? Ma mio marito è dentro fuori di galera e tutte le volte che viene a casa mi mette incinta. Io cosa faccio? Partorisco un figlio che è il padre in galera? Ha fatto 3 aborti questa creatura, ma il suo istinto profondo di donna, di madre, di cristiana anche, perché il cristianesimo, quando ce l'abbiamo dentro da generazioni, non possiamo svestircelo così impunemente, le diceva che lei aveva affrontato e non accolto 3 destini. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi. E allora io vorrei con voi pregare il Signore per tutte le donne che si scoprono a un certo punto della loro vita di aspettare un figlio. Che il Signore le accompagni nell'avere questo figlio. E se qualcuna, per motivi più vari, non riuscirà ad avere la forza di mettere al mondo questa creatura di Dio, che il Signore non la lasci sola, perché il mondo può così gridare le sue false ragioni. Ma quando tu entri in contatto col cuore, con la coscienza della persona, tu senti quel grido di quella donna: 3 aborti ho fatto, Dio mi manda all'inferno. E un sacerdote essere lì a cercare di far scoprire la speranza a una donna che era disperata.